Sono circa 500 miliardi i soldi che gli italiani hanno nascosto nei paradisi fiscali secondo la Banca d'Italia. Se su questo tesoretto gli evasori pagassero le tasse, nelle casse dello Stato affluirebbero di colpo circa 230 miliardi di euro, praticamente 10 finanziarie. Tradotto, più cure sanitarie, più asili nido, più banda larga, più aule scientifiche e computer nelle scuole, più treni per i pendolari e più autostrade e infrastrutture. Per riportare questi capitali in Italia, negli ultimi anni si sono moltiplicati i condoni o scudi fiscali. Nel 2001 rientrarono 65 miliardi con un gettito per le casse dello Stato di appena 1,6 miliardi. Nel 2003 la somma emersa fu di 12 miliardi e mezzo. L'ultimo scudo fiscale del 2009-2010 ha riportato in Italia 104 miliardi, sui quali lo Stato ne ha incassati però 5,6. Peccato che se su quei 104 miliardi fossero state pagate tutte le imposte previste per legge, lo Stato di miliardi ne avrebbe ottenuti non 5 ma 45. A conti fatti, quindi, lo Stato ci ha rimesso 40 miliardi, senza contare che i 5 miliardi sono ancora parole, non soldi veri. Ad esempio, dell'incasso del lontano condono 2003-2004 mancano ancora all'appello 5,2 miliardi di euro e di questi almeno 2 sono inesigibili perché gli evasori o sono falliti o sono scappati col malloppo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.